giorno cominciamo questo forum sui movimenti antagonisti al 68 ad oggi, coordiniamo Salvo Vitale e io. Abbiamo come primi interventi Renate Sibert, Piero Bernocchi, Vincenzo Miliucci. Allora, io presento brevissimamente Renate Sibert. Non so se avete visto questo libretto in cui ripubblico dei miei interventi sul 68 e sul 77. A un certo punto, parlando di modernità e postmodernità, pagina 8 e 9, dico: fra le icone di quegli anni, accanto ai guerrieri vietnamiti, al CE compare Franz Fanon, anche grazie a studiosi della scuola di Francoforte. In realtà lo studioso, anzi la studiosa, è soltanto Renate Sibert, che chiese ad Adorno a Francoforte, poi questo lo racconterà meglio lei, di fare una tesi appunto sulle pubblicazioni e sull'attività di Franz Fanon. Do la parola a Renate, che ci racconterà tutta la sua esperienza, che mi pare sia stato un decennio a Francoforte. Grazie. Io vorrei cominciare a ragionare sull'esperienza del 68 in Germania, naturalmente attraverso, diciamo, lo sguardo mio, quindi è sempre uno sguardo parziale, con una citazione di appunto Adorno, filosofo, sociologo, maestro della scuola di Francoforte e maestro mio in quegli anni di studio che ho passato lì. Scrive Adorno: esperienza sarebbe l'unione fra tradizione e aperta nostalgia di ciò che è straniero. In questa citazione noi abbiamo il polo dell'esperienza, la tradizione, quindi il passato, e la nostalgia, il sogno, il futuro, la speranza dello straniero. In tedesco potrebbe anche tenere dentro l'estraneo, ma è più lo straniero in questo caso. Possibile la partecipazione contemporanea come iscritti al partito e all'Unione degli Studenti. Il 68, gli anni del 68 tedesco hanno coinvolto tutte le università tedesche, però credo che si possa dire che Francoforte e Berlino erano i punti, diciamo, cruciali, i luoghi centrali della protesta e appunto dappertutto, io credo, ma in modo poi molto esplicito, drammatico in certe manifestazioni, questa è emersa, la questione generazionale, sulla quale mi voglio solo un attimo soffermare, è stato a mio avviso l'elemento che ha qualificato il tipo di protesta, perché la mia generazione, quella appunto che cresce, diventa adolescente, poi giovane negli anni 50, ha passato la propria vita adolescenziale in un clima a dir poco spaventoso, perché attorno a noi era un mondo distrutto sì fisicamente, ma non era tanto quello, un mondo di adulti assolutamente devastati dalla propria partecipazione al nazismo, perché il nazismo era molto condiviso in Germania e noi siamo stati liberati, noi non ci siamo liberati come con una resistenza, anche perché il nazismo è stato molto feroce fin dall'inizio a soffocare qualunque, c'era resistenza inizialmente, ma era molto forte la repressione. Quindi negli anni della mia adolescenza, ma credo di poterlo generalizzare per la mia generazione, noi abbiamo subito il trauma di vedere attorno a noi crollare ogni riferimento rispetto agli adulti. Non c'era nessuna credibilità, non c'era autorità credibile. Noi eravamo in mezzo a questi adulti devastati dal nazismo, colpevoli e silenziosi, soprattutto silenziosi e colpevoli. Era un silenzio conturbante, un'angoscia direi muta della guerra e delle distruzioni, e al centro di tutto ciò la colpevolezza e il grande tabù della Shoah, il grande non detto di quegli anni. Noi oggi abbiamo per scontato che c'è stato il genocidio degli ebrei, ma allora si bisbigliava e quando si chiedeva c'era un totale silenzio, direi. Quindi c'era un'assenza di tradizione, per ritornare alla citazione iniziale di Adorno, e quando non c'è tradizione, non c'è passato, è molto difficile rapportarsi al futuro, al presente e al futuro. Noi volevamo il cosiddetto 68 in Germania, si prepara in modo crescente attraverso tutti gli anni 60, attraverso le cose che molto velocemente vi ho elencato, e tutte queste molteplici attività, molto anche circoscritte a volte nelle varie regioni, io penso che a posteriori, solo visto da oggi, si può dire che hanno portato a una sorta di seconda fondazione della Repubblica Federale, in senso di una società essenzialmente denazificata, perché la prima ondata di denazificazione che c'è stata, che è stata imposta dagli alleati, era molto di facciata, era davvero, veniva fatto, no? Però molto lento, e poi comunque non toccava le persone nel proprio interno. E quindi possiamo dire che il paese passa, dopo questi anni 60, a una forma di democrazia più sostanziale, in qualche modo, che si basa adesso sì davvero su una elaborazione del passato nazista a posto dell'opprimente silenzio, perché su questo credo davvero la Germania federale ha fatto moltissimo nell'affrontare responsabilmente quelle proprie responsabilità, poi con le rispettive conseguenze per le istituzioni, che c'è stata la denazificazione nelle istituzioni, sapere. Io, la mia impressione è che nel rapporto con i movimenti una parte della sinistra ufficiale italiana non ha capito un cazzo. Sta succedendo una cosa apparentemente singolare. L'interesse, l'attenzione e anche l'attacco frontale al 68 avviene a 40 anni di distanza più che a 30 e a 20 anni di distanza. E l'attenzione per Peppino Impastato cresce col passare degli anni, e quest'anno indubbiamente ha straripato, nel senso che non so se tutti i presenti hanno la coscienza e la consapevolezza di quanto a livello italiano, nazionale e europeo la storia di Peppino, la sua parabola e la sua fine abbiano avuto quest'anno, in questi giorni, un interesse come non mai. E a tal proposito ci tengo a dire che anche questa immagine che comincia a circolare di Peppino come una specie di Che Guevara italiano, certo, può sembrare forzata perché Peppino una rivoluzione in un paese non l'ha fatta, però invece non è sproporzionata, non soltanto per l'eroismo del personaggio e dei suoi compagni, che supera di gran lunga l'eroismo assai limitato circolato nel 68. Io ieri dicevo con una battuta che se fossi nato a Cinisi sicuramente non avrei aperto una radio a Cinisi, anzi probabilmente me ne sarei andato rapidissimamente, e i fatti di questi giorni lo confermano. Il fatto che a 30 anni di distanza il paese non faccia una clamorosa autocritica, non si vergogni della propria storia e non cerchi nemmeno adesso di recuperare una qualche identità dignitosa, dimostra che quell'impresa era pressoché impossibile, ma soprattutto era un'impresa che Peppino non poteva non sapere come sarebbe andata a finire. Non poteva non sapere che non aveva speranza di passare indenne da questa avventura. Ma al di là di questo aspetto eroico, la battaglia che a ragione Salvo ancora non ha vinto, e cioè di considerare i poteri mafiosi parte non solo integrante del sistema capitalistico internazionale, ma una delle parti più forti. Pensate soltanto a qual è la situazione oggi nell'unico paese in Latin America che resiste alle trasformazioni, la Colombia. In Latin America l'attenzione sulle economie mafiose è altissima, e in Europa e in Italia, che ancora oggi non si riesce a affrontare frontalmente questa faccenda. E lo stesso 68 ignorò la grande la questione della mafia, cioè non è che tutti i gruppazzi che in autunno e in estate girarono per il sud d'Italia cercando di organizzare i contadini dissero tranquillamente qual era l'avversario principale nel sud d'Italia. La mafia non veniva neanche nominata all'interno del 68, come non si parlava delle gerarchie vaticane, per esempio, cioè quelli che erano i veri cancri dell'Italia erano ignorati nel 68, il 69, il 70, il 71, e attualmente la loro tenacia, perché senza la tenacia dei compagni e le compagne di Peppino non staremmo qua, e probabilmente Peppino sarebbe stato cancellato dalla storia, questa battaglia è ancora tutta da fare e non è per niente non solo vinta a livello generale, popolare, come dimostra la vergognosa assenza di questo paese da queste mobilitazioni, tranne ovviamente il concerto di Carmen Consoli, ma al di là di questo non sono andati, ma perché all'interno, a ragione Salvo, del movimento e dei movimenti antiliberisti questo tema viene ancora considerato come assolutamente secondario. Quindi massima attenzione su questo argomento. E però, tornando alla questione 68, perché a 40 anni di distanza sparano a zero ancora sul 68? Non solo con questa frescaccia totale del 68 che ha partorito il brigatismo, lasciamo da parte la parola terrorismo che ormai è usata, come sapete, per tutto. È riuscito il PC, non c'è riuscito Rifondazione, ma arriva qualcun altro e dice tutti intorno a me, ma col cazzo, ma chi ci viene? Questa alleanza però va costruita intanto a partire dai territori. Adesso non libitizziamo troppo questi territori, perché non è che prendi la gente e il territorio automaticamente c'ha sempre ragione, perché a Opera il territorio ha saltato al campo nomadi per 15 giorni tirandogli i sassi. A Verona il territorio ha impedito, come ben si sa, di circolare a chiunque ci avesse i capelli lunghi, sembrasse di sinistra, sembrasse una zecca, no? Quindi il territorio non è che di per sé ci metto insieme il territorio e quelli diventano di sinistra, no, a Vicenza è andata così. Perché c'è la base, eccetera, però a Vicenza contemporaneamente ci sono i nazisti che girano pure lì, non è che lì non girano. Quindi non mitizziamo la questione del territorio, però sicuramente a livello locale queste alleanze che stiamo cercando di costruire col patto di mutuo soccorso, il patto contro la guerra, il patto contro la precarietà, devono camminare a livello locale. Non è che c'è un luogo centrale dove si fa una cupola e poi si mandano i comandi a livello territoriale. Non funziona, non ti si caga nessuno, detto sinceramente. C'è un potenziale umano, basta guardare qua, c'è un potenziale umano di gente non organizzata, che non fa riferimento a nessuno e che non accetta che qualcuno gli dica venite tutti da me che ve salvo io, perché non c'è la salvezza così. Questo bisogna che ognuno lo capisca senza che sta aspettando, e quindi a livello territoriale costruire forme di lavoro comune, che non significa reduzio ad unum, anzi quella va accuratamente evitata. Significa che tra le organizzazioni, per esempio, del sindacalismo antagonista si stabiliscono accordi in cui ognuno mantiene la propria autonomia, ma si fanno le cose insieme che si possono fare, e quando non si possono fare, come succede a livello internazionale, chi vuole fare una cosa se la firma senza che questo diventi un elemento di spaccatura per il futuro. Noi per esempio adesso stiamo discutendo se fare uno sciopero, come qualcuno pensa, a giugno o come noi pensiamo più in là. Se quelli che vogliono farlo a giugno prevarranno, se lo faranno, ma non faremo una guerra. Noi pensiamo che non sia maturo, che bisogna aspettare ancora, perché la gente sta ancora frastornata e gli dice facciamo sciopero domani, sembra che tu vuoi fare la rivincita, siccome ci associano ancora a quella disgraziata avventura della sinistra arcobaleno, da cui siamo stati, sapete, noi come cosa assolutamente strani, abbiamo attaccato frontalmente questa prospettiva, però ti dicono ecco, mo vogliono la rivincita, fanno lo sciopero subito, no? Però questa divergenza, come tutte le altre divergenze, vanno calibrate in maniera intelligente. Siamo d'accordo? Si fa insieme, con il meccanismo del consenso, non col 51%. Non siamo d'accordo? Chi se la vuole? Se la fa, ma non diventa un oggetto di scontro. E si prova a livello territoriale ad avere momenti di raccordo tra tutti i vari movimenti possibili per avere, ecco, consultazioni permanenti, azioni permanenti. Tutto ciò produrrà a livello nazionale un'aggregazione simile a quelle latinoamericane? Lo vedremo, adesso dirlo è prematuro. E anche la risposta che spesso ti chiedono, sì, ma sul piano istituzionale che cosa si fa? Intanto leviamoci da dalla testa, questa stronzata colossale che la destra mo sta dilagando e che la natura sociale dell'Italia è cambiata negli ultimi 3 mesi, perché questa è una frescaccia colossale. Che la Lega avesse non solo l'8,3 ma pure il 9,5, l'abbiamo già visto nel 94. La Lega già l'ha fatto questo lavoro, ha già ottenuto, ingannando, perché di questo si tratta, le masse a livello capillare nel nord, ha già ottenuto questi risultati. Ma quando poi è dovuta andare al governo e ha dimostrato scientificamente che col cavolo che i soldi della Lombardia possono rimanere in Lombardia, perché poi al Lombardo quello potente, quello che sta qua, che ha preso il 66%, che non gli dai più i soldi? Impensabile, impensabile, che voi guardate la Lega, ma guardiamo in Sicilia. Questo ha costruito un potere attraverso tutti i collegamenti che ha, talmente potente che è arrivato a risultati che altro che la Lega. È pensabile che la Lombardia, il Veneto, il Piemonte si tengono i loro soldi, i soldi non arrivano giù, ma salta per aria tutto. È pensabile, come ha detto la Lega, che verranno tagliati i ministeri, i ministeriali, i soldi ai ministeriali, ma l'Alleanza Nazionale butta per aria tutto. Cioè queste sono state tutte promesse che hanno potuto funzionare in un'assenza totale di una sedicente sinistra che ha detto più o meno le cose degli altri, quelli gliel'hanno dette nettamente. Sì. Sì, ma i fondi della Padania non sono stornabili, non possono rimanere lì. Agli operai della Padania non gli raddoppieranno lo stipendio, non è pensabile, continuare ad avere gli stipendi miserabili che hanno adesso, e tra poche settimane e mesi le cose esploderanno, nel senso che la gente non potrà continuare a passare il tempo a dare in testa ai nomadi, perché questa cosa bieca, schifosa che la Lega fa, e quindi chi dice la Lega è il nuovo PC, io tra l'altro se fossi uno del PC darei in escandescenze, perché è un insulto. Stiamo parlando di un'organizzazione razzista, xenofoba, che lavora sugli istinti più bassi, come ha fatto Haider in Carinzia, come ha fatto Le Pen diventando il partito principale in Francia degli operai per molto tempo, come ha fatto Sarkozy, come a suo tempo ha fatto Reagan negli Stati Uniti. È un lavoro semplicissimo, non puoi scavalcare, non puoi andare in alto, non puoi tirare giù i padroni, te la pigli con quello che ti sta sotto, dai un calcio in culo a quello che sta sotto di te. Questa è una cosa bieca, si lavora proprio sulle parti peggiori della natura umana. È certo che a livello popolare ha avuto successo, ma questa roba quando vai a governare non funziona. Che fai? Continui a dire agli operai tutto il tempo che butterai fuori i nomadi, i salari calano vertiginosamente e tu gli dici che fanno schifo i rom? Non funziona, funziona solo come campagna elettorale, e infatti il centrodestra non sta per niente tranquillo. Quindi non teorizziamo questi grandi, diciamo le cose come stanno. La sinistra arcobaleno è andata alla catastrofe scientemente, si è suicidata politicamente seguendo una strada fallimentare, punto. La sinistra PD si è presentata esattamente come gli altri, la campagna razzista è stata fatta dai sindaci del centro-sinistra quanto e più di quelli del centro-destra, sono stati loro l'avanguardia. E Cofferati, il primo che ha detto non si può girare la sera a Bologna con le birre in mano, bisogna fare il coprifuoco, è stato Cioni a Firenze, che è consigliere e assessore di Firenze, a dire non si può stare sdraiato sul marciapiede con le gambe di fuori perché si intralcia il passaggio. Questa campagna anti-immigrati, anti-rom, anti-diversi è stata costruita al centro-sinistra quanto il centro-destra, e adesso questi sono i risultati. Si scopre che negli ultimi 2 anni i furti e gli scippi si sono dimezzati, si scopre che gli assassini, quelli veri, quelli di mafia, sono 250 l'anno, quelli non di mafia sono 280, di questi la metà si fanno in casa, solo 140 persone vengono ammazzate in giro per non delitti di mafia o familiari, quando, che ne so, a Filadelfia 600.000 abitanti si ammazzano 300 persone l'anno, a New York, che insomma ce n'è un pochettino di più, se l'ammazzano al mese 300, e nonostante ciò sono riusciti tutti insieme a costruire questa mitologia della sicurezza, eccetera. Benissimo, ne prendiamo atto, l'hanno fatto tutti insieme, è normale che funzionasse. Se tutti i giorni ti senti un TG con 73 notizie così, alla fine ci credi, però non diciamo che è cambiata la natura sociale di questo paese. Rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo in maniera, come dicevo prima, con la forma dell'alleanza. Le occasioni non ci mancheranno nei prossimi giorni e mesi, avremo migliaia e migliaia di occasioni a livello territoriale e a livello nazionale per fare conflitto. Facciamolo in maniera organizzata, non entriamo assolutamente nella sindrome degli sconfitti. Gli sconfitti sono loro, sono quelli che hanno voluto fare questa trafila, sapevano dove portava, hanno perso, adesso stanno tutti in cassa integrazione, devono recuperare un senso sociale, sono stati aboliti come un ente inutile, perché questa è la realtà, e quindi devono decidere loro come riciclarsi. Ma noi, diciamo, tutti quelli che hanno fatto, è quasi obliterata, è venuta quasi soffocata, appresa la sera del 9 maggio, recuperata, come dire, come notizia e non approfondita nei mesi successivi, ma anche perché Roma era sotto sequestro,

direi, di analisi e sia soprattutto a livello di pratica territoriale, nel senso che il Laboratorio Z è una sorta di centro sociale, anzi possiamo definire un centro sociale che opera all'interno di un quartiere che certamente non si può definire proletario, ammesso che ormai l'urbanistica consenta l'esistenza di quartieri con una precisa determinazione sociologica, e lì svolgono un'attività che è appunto un'attività culturale, un'attività di incontro, di socializzazione. La parola a Toto Cavalieri. Allora, uno dei temi centrali delle ultime giornate e soprattutto dell'analisi post elezioni è stato il ritorno del territorio. Il segnale che ci dà la Lega, ma anche il segnale che ci dà l'ottimo risultato di Vicenza è che ritorna il legame col territorio, che è come dire, è come se si fosse chiuso quel passaggio che si era iniziato col 68 di abbandono della modernità, e che dopo l'abbandono del materiale e l'avvio ai flussi, dopo 40 anni ci ritroviamo di nuovo nel territorio, nella stretta materialità. Non penso però che sia così semplice, non penso che il territorio al quale possiamo fare riferimento oggi è lo stesso territorio a cui potevamo fare riferimento 40 anni, 50 anni fa. Penso che invece che sia necessario approfondire il ragionamento tra territorio e flussi. Penso che sia necessario perché altri lo fanno, e lo fanno molto bene. Per esempio lo fa bene la Lega, lo fa bene il governo Berlusconi, che interpreta bene il radicamento nel territorio, in qualche modo tenendolo separato dai grandi flussi economici, dai grandi flussi del capitale. Sono, come dire, due aspetti della stessa medaglia che vengono gestiti, che sono, come dire, gli aspetti per cui abbiamo Alemanno o Fini a gestire i flussi e le squadrette ad organizzare i territori. Cioè è l'immagine delle ronde e dell'alta finanza. Penso che questo sia un discorso fondamentale, il rapporto tra territori e flussi, perché appunto riguarda in modo stretto ciò che intendiamo noi per politica. Cioè come organizziamo la nostra capacità conflittuale, la nostra presenza appunto nei territori, riuscendo anche a intervenire sui flussi. Specifico meglio.